Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Eccoci a un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, della cultura. Nato e cresciuto a Roma, da ragazzo è un atleta. A 16 anni vince il campionato italiano giovanile di nuoto nei 100 metri dorso. Ma se la sua carriera agonistica è avara di successi, quella cinematografica prende rapidamente quota. Esordisce nel 1992 in TV e al cinema. Il primo successo l'anno dopo nella commedia rosa Piccolo grande amore. Si impone poi come attore drammatico. Lavora anche negli Stati Uniti. Quest'anno ha rivelato una verve da attore di commedie, protagonista di due dei successi della stagione, Nessuno mi può giudicare e Immaturi. Lui è Raoul Bova, che nella vita immaturo non lo è per niente. Secondo me ci sono gli immaturi e i maturi in ogni generazione. Ovviamente la società ti può mettere in una condizione di realizzare o non realizzare i tuoi sogni, ma la maturità è qualcosa che scaturisce dentro di te. I modelli ideali, se non ci sono, se non sono presenti, ci sono quelli del passato, ci sono stati e sicuramente sono un punto di riferimento importante. Io ce n'ho avuti punti di riferimento, un po' come per tutti: Che Guevara, Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, insomma, poi San Francesco per me, cioè sono tutte un mix, no, di cose tra presente e passato che comunque mi hanno dato una mia linea, una mia voglia, il mio modo di proseguire, insomma, vedere la vita, quindi gli ideali, quindi di maturare fondamentalmente. Però è una ricerca che faccio io interiormente dentro di me, non è che mi arriva da una società. È un periodo molto favorevole per i film italiani, per le commedie. Ultimamente forse ho fatto un po' più commedie che film, che altri, che altro. Con grande gioia, con grande divertimento, mi rendo conto che non è una cosa che mi viene facilissima, quindi mi devo trovare nella condizione e scegliere comunque i personaggi che siano anche in linea un po' con il mio modo, no, di fare commedia, che non è quello comico, quello dei comici. Però lo faccio con grande piacere, anche perché soprattutto nel caso di Immaturi non è una cosa del tutto fantasiosa, ma mi piace vedere le varie prospettive della vita, cioè attraverso i vari generi del cinema riesci comunque a capire anche come le stesse cose si possono vedere da punti di vista diversi. Poi a me non mi va di parlare del ruolo dell'attore, che sembra una cosa complicata perché sembra che uno si tira l'acqua al proprio mulino, però cioè non penso che tutti quanti poi, cioè la commedia cioè non è che tutti quanti possono fare la commedia, bisogna crescere, bisogna studiarla, bisogna essere guidati all'inizio e soprattutto forse avere una persona che ti tira fuori quel lato di commedia che forse tu neanche sai di avere, così come poi è successo a me. Io sono una persona poi timida, soprattutto nella vita, poi comunque non sono un espansivo, non sono un istrione, cioè quando vado a cena fuori con gli amici non è che sono quello che parla a tutti quanti, proprio mai, al massimo posso parlare con quello che mi sta vicino e basta, cioè se già dire una cosa a un altro faccio i segni ma non alzo mai la voce, cioè mi vergogno, quindi insomma un attore come me va guidato, va molto, insomma, istradato. Allora Matteo, ora che è nato il fratellino, mamma ha bisogno d'aiuto. Ormai sei tu lo metto di casa. Pensa che io sono figlio unico. Avrei pagato qualunque cosa per avere un piccoletto con cui giocare. Io stavo benissimo da solo e non mi piacciono i piccoletti. Ah, come non ti piacciono, scusa, sono bellissimi. Non ti far ingannare. Non sono così come sembrano. Mangiano, pisciano e cagano. Ma soprattutto cagano. Perché dovrebbero piacermi? Ah, cagano molto. È vero che comunque dopo questa serie di commedie il cinema italiano, io spero che abbia, insomma, la stessa fortuna anche con altri film, insomma, con altri film anche d'autore, insomma, che ci sia che sia l'inizio di una credibilità da parte del nostro cinema, perché comunque penso che non è una cosa di fortuna, questa è una questione di credibilità. Il cinema italiano sta acquistando credibilità da parte del pubblico italiano e quindi non rimane più deluso, ogni volta che va al cinema vede, penso, un bel film, un film che piace, e quindi comincia ad andare a vedere i film italiani. quindi spero che si possa ampliare la cosa anche su altri film. Buongiorno. Buongiorno. A chi si rivolse Foscolo nel Carmine dei Sepolcri? Foscolo si rivolse al suo amico scrittore Ippolito Pindemonte, che all'epoca stava scrivendo un poema, poemetto. E qual era il titolo di questo poemetto? Scusate, ho studiato per 6 mesi, fatemi andare avanti, fatemi un'altra domanda almeno. Cioè. Perché l'epigramma di Catullo odi e t'amo è così importante? Forse va bene così, Arrivederci, grazie. La domanda devo farla, e l'incubo voi l'avete sempre fatto? Perché noi l'abbiamo sempre fatto tutti, l'incubo della maturità. Quando ho letto il copione, diciamo, non mi sono neanche soffermato molto sulla mia parte, perché era talmente tanto forte l'immedesimazione in quell'incubo lì dell'esame che per me è stato già quello, è stato folgorante, insomma, della sceneggiatura, è stata proprio l'idea. Poi sul resto ci si può sempre un po' lavorare, insomma, metterlo un po' più su un attore piuttosto che su un altro, cercare di modificare, però quell'idea lì era, pensavo soltanto io di averla. Poi quando l'ho letto ho detto, ma scusa, ma quindi anche tu? Dici, ma no, ma pure tu, ma quindi tutti quanti? Cioè scopri che invece è un incubo ricorrente. Io invece pensavo fosse soltanto mia la paura, perché poi ognuno di noi magari ha sofferto questa cosa qua, soprattutto anche nella vita. Poi ho scoperto che la paura degli esami è proprio una cosa ricorrente un po' per tutti. È stato proprio tanto bello, però non si può andare avanti. Come, se è stato bello, perché non si può andare avanti? Non ho capito. Perché non si può andare avanti? Mi sei simpatico, mi piaci, ma tanto mi piaci, proprio tanto. Pure te mi piaci. Però non, io in questo momento una storia non me la posso proprio permettere, capito? Non voglio stare male io, soprattutto non voglio stare male te. Ma chi sta male? Io sto male. Adesso. Ma poi? Ho capito, poi quando sarà uno ci pensa, no? In Nessuno mi può giudicare invece sei tornato a fare un principe azzurro, ma un principe molto particolare. Ma sai com'è? È affascinante il principe azzurro, è affascinante un po' il personaggio di periferia, no? Che comunque ha delle sue, cioè Verdone ne ha fatto un'antologia, ha fatto proprio il dizionario del coatto romano, del coatto in genere, e quindi è divertente, perché ci sono degli atteggiamenti, delle posture, dei modi di parlare, di guardare, che comunque veramente se ti trovi, e io mi sono trovato in situazioni periferiche con tante persone, insomma, considerate coatte, che comunque sono un film solo a guardarli, da come si muovono, da come parlano, come interagiscono con tutti. Ti faccio un caffè? No, e chi dorme? Domani mattina mi sveglio presto. Anzi, magari è meglio se vado. Vabbè. Allora, buonanotte. Buonanotte. A metà agosto compi 40 anni, ma lo sai che una volta in passato hai dichiarato che a 40 anni saresti stato vecchio? Perché ho detto così? Sì, no, pensavo sì, forse perché immaginavo che, insomma, a 40 anni, c'erano due cose. Una, perché dicevo, a 40 anni magari sei diventato vecchio ormai, no? Perché forse ci avevamo un'altra immagine dei quarantenni, insomma, della vecchia generazione. E poi perché, e da una parte invece mi piaceva crescere, perché comunque pensavo che comunque era sinonimo di libertà, di finalmente puoi fare quello che ti pare, puoi decidere la tua vita, un po' come, poi magari ci arrivi e dici, in realtà sei nella stessa condizione di prima, e scopri che la libertà fondamentalmente non è che ti arriva dagli anni, anzi a volte potresti essere addirittura più ingabbiato di prima. Meno libero di prima, volendo. Ci può essere il lavoro, può essere la famiglia, può essere gli amori, i figli, cioè possono essere cose che si possono diventare anche costrittive se non le usi in un modo positivo. La nostra voce in scena di oggi era Raul Bova. Ci ritroviamo domani per un nuovo appuntamento. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.